che le patatine fritte, le salse, gli intingono, le creme e in genere i cibi grassi sono così invitanti e irresistibili? A questa domanda, che tutti noi ci siamo fatti, ha trovato risposta un importante studio pubblicato su PNAS, è una prestigiosa rivista scientifica, frutto di una collaborazione italo-americana tra l'Istituto Italiano di Tecnologia, l'Università di California e l'Albert Einstein College di New York. In linea con noi abbiamo l'autore, il professor Daniele Piomelli, dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei. Professore, il vostro studio ha scoperto il meccanismo che sta alla base della difficoltà nello smettere di mangiare cibi grassi. Ci racconta allora a quali risultati siete giunti? Il lavoro, tengo a precisare, è stato compiuto su animali, su ratti di laboratorio, quindi si tratta comunque di una ricerca di base, che è partita dall'interesse a capire cosa è speciale nei grassi che li rende così particolarmente appetibili da parte di noi mammiferi, di noi esseri umani e di altre specie di mammifero. E in questo è importante come premessa spiegare una cosa, che se oggi è facile mangiare cibi grassi, è facile trovare cibi grassi nei negozi, nei ristoranti e nei nostri frigoriferi, e una volta questo non era così. Quando ancora eravamo cacciatori-raccoglitori e dovevamo trovarci il nostro pranzo e la nostra cena con le nostre gambe e con le nostre braccia, era molto più difficile. E sappiamo che la frutta, le verdure, le erbe, i tuberi che mangiano soprattutto i cacciatori-raccoglitori sono poveri in sostanze grasse e lo sono anche un po' gli animali selvatici. Quindi è normale che la natura nel corso del processo evolutivo abbia creato dei meccanismi che facilitano il nostro interesse verso il grasso, quindi che una volta che noi troviamo questa sostanza così rara ma così anche importante e ne consumiamo la maggiore quantità possibile. Quello che era un meccanismo così necessario nel passato adesso è diventato ai giorni nostri causa di sovrappeso, obesità, patologie molto importanti, penso al diabete, alle malattie coronariche, anche ai tumori. È ormai evidenziata una relazione molto stretta tra lo stile alimentare, la dieta e l'insorgenza di alcuni tipi di tumore. Assolutamente, queste connessioni che lei ha fatto sono sicuramente verificabili nei dati clinici, nei dati sperimentali e in effetti questo è il paradosso, che un meccanismo che da un punto di vista evolutivo aveva una sua importanza adesso è diventato un meccanismo patologico che quindi ci crea più problemi che altro. Quindi capire come funziona è importante, anche se solo fatto nell'animale per il momento, non nell'uomo, capire come funzioni è molto importante. Quindi la nostra curiosità nasce anche da una necessità di interesse medico. E che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto una cosa che per noi è stata sorprendente, e che quando un animale gusta nella lingua, nella bocca, una sostanza grassa, questo gustare attiva un meccanismo un po' complesso che implica prima il cervello ma poi soprattutto l'intestino, in cui sostanze cosiddette endocannabinoidi vengono prodotte e incominciano ad agire. E questa azione porta a un meccanismo di retroazione positiva, come si dice tecnicamente, cioè a un aumentare l'interesse per il grasso che si è appena gustato. Allora vorrei spiegare un attimino cosa sono questi endocannabinoidi, perché non credo che gli ascoltatori. Grazie, è proprio questo che volevo chiederle, perché ecco, sono parole che noi spesso sentiamo ma vogliamo conoscerle meglio. Grazie professore. Certo, certo. Dunque, io penso che tutti conoscano la marijuana e l'hashish, queste le conosciamo tutti, sono sostanze d'abuso molto importanti, droghe d'abuso molto importanti, ben conosciute. Agiscono perché vengono tutte da una sola pianta che in latino si chiama cannabis, cannabis sativa. E agiscono perché all'interno, con questa pianta, particolarmente le infiorescenze, contengono una sostanza che si chiama il tetraidrocannabinolo. Questa sostanza come agisce nel nostro organismo? Agisce legandosi, cioè riconoscendo un recettore, cioè una proteina presente sulla superficie delle nostre cellule, soprattutto le cellule nervose, ma anche altre cellule del corpo. Quando si lega a questo recettore il tetraidrocannabinolo ne cambia la forma e questo produce dei cambiamenti biochimici nella cellula che poi portano alle risposte che le persone che usano questi farmaci poi desiderano, no? Queste droghe poi desiderano, perché il cambiamento di umore, il cambiamento anche di presa alimentare che fanno seguito all'uso di cannabis, quindi marijuana e di hashish, sono prodotti appunto dal legame tra il tetraidrocannabinolo e questo suo recettore. Perché tutto questo preambolo? Perché il tetraidrocannabinolo è nelle piante, in particolarmente in questa cannabis, come ho detto. Noi, e quando dico noi parlo di tutti i mammiferi e anche di noi umani, abbiamo il nostro proprio tetraidrocannabinolo, che non ha chimicamente la stessa struttura del tetraidrocannabinolo, ma agisce esattamente nella stessa maniera. Sono delle sostanze, più di una in realtà, che si chiamano cannabinoidi, perché da cannabis, endogeni, cioè naturali, interni, e quindi endocannabinoidi. E queste sostanze hanno una serie di funzioni importantissime nell'organismo, perché a livello cerebrale regolano per esempio l'umore, regolano la nostra risposta allo stress, regolano l'ansia, tutte devo dire in maniera piuttosto positiva, cioè aumentano la nostra risposta allo stress, la migliorano l'umore, diminuiscono l'ansia, cioè una serie di azioni effettivamente molto importanti, molto utili nel cervello. Al di fuori del cervello anche fanno delle cose importanti, utili, che adesso non posso raccontare tutte, ma una di queste è quella che abbiamo scoperto in questo nostro ultimo lavoro, che è quella di aumentare il nostro desiderio di cibi grassi, che vi ripeto, da un punto di vista evolutivo è una cosa buona, e che adesso che è diventato un problema per le ragioni che diceva anche lei. Questo studio, e lei l'ha ben specificato, ma lo ricordiamo, si tratta di una ricerca di base, per ora avete studiato i topolini, ecco, dove vi porterà? Noi vorremmo che ci portasse, questa è sicuramente la nostra speranza e anche la nostra intenzione, è verso una terapia, se non necessariamente farmacologica, anche una terapia di tipo nutrizionale. Ma cominciamo da quella farmacologica, perché poi è l'area di mia maggiore competenza. Come si può utilizzare questo meccanismo che abbiamo scoperto per ridurre questo interesse verso i grassi, ma non nelle persone, diciamo, normobariche, quelle persone di peso corporeo normale come siamo noi, bensì per le persone obese o in sovrappeso eccessivo che abbiano un problema a un eccesso intake, a un eccesso ingestione di sostanze grasse. Come si potrebbe fare questa cosa? Diciamo che una cosa che si può fare è di bloccare l'azione di questi endocannabinoidi, e questo può essere fatto con dei composti chimici, con delle molecole molto selettive che già esistono, che vanno a occupare il recettore ma non lo attivano, sono cosiddetti antagonisti, quindi occupano il recettore cannabinoide selettivamente ma non lo attivano, e quindi il risultato è che quando gli endocannabinoidi arrivano per farci mangiare il grasso lo trovano già occupato e non possono fare quello che vorrebbero fare. È come spegnere un interruttore. È proprio come spegnere un interruttore, si spegne l'interruttore, ci si mette sopra un pezzettino di scotch, la persona che arriva per cerca di aprirlo, cerca di attivarlo, diciamo, non può farlo. Però c'è un problema, e qual è il problema? Perché poi ci sono sempre i problemi. Certo, no? Non è mica ecco, così facile. Sarebbe bello se fossero facili le cose. Il problema è che se questo composto che abbiamo inventato, e ce ne sono, non l'abbiamo inventato solo noi, ce ne sono altri che sono parecchi, se questi composti che vanno a bloccare il recettore cannabinoide entrano nel sistema nervoso centrale, quindi nel cervello, e vanno a interferire con quelle cose che dicevo prima. Quindi vanno a interferire con il controllo dell'ansia, con il controllo dell'umore, con la risposta allo stress, e siccome gli endocannabinoidi hanno un ruolo piuttosto positivo in tutte queste risposte, andare a bloccare non può che essere negativo, e questo è il problema. Però c'è una soluzione anche a questo problema. È possibile, per esempio, e questo si sta facendo in questo momento, l'abbiamo fatto anche noi, ma anche altri laboratori stanno seguendo questo tipo di strategia, si possono fare delle molecole che non accedono, non entrano nel sistema nervoso centrale. E questo è possibile perché il nostro cervello è ricoperto da una superficie, da una membrana, se vogliamo, che lo protegge dal resto del corpo. Si chiama la barriera ematoencefalica e è possibile disegnare delle molecole che sono incapaci di passare questa barriera cellulare che protegge il cervello da tutti gli eventi esterni. Quindi una molecola di questo genere. Quindi professore, una molecola che inibisca a livello locale, non centrale, il desiderio di ingerire cibi grassi. Esattamente, e questo noi sappiamo già che funziona, perché abbiamo una molecola di questo genere che abbiamo creato nel nostro laboratorio un po' di anni fa e l'abbiamo testata in questo studio che abbiamo appena pubblicato. Questa però non è una molecola di tipo commerciale, è una molecola assolutamente sperimentale, non potrà essere avanzata in clinica perché ha tutta una serie di problematiche, però altri ricercatori che stanno lavorando sulla stessa area, nella stessa area, hanno anche loro delle molecole. Io sono abbastanza ottimista che nei prossimi anni questa strategia, quindi di bloccare il recettore cannabinoide fuori dal cervello, venga presa in considerazione anche dall'industria farmaceutica, perché in questo momento l'industria farmaceutica è molto cauta, e giustamente anche perché quando si occupa il recettore cannabinoide a livello centrale, a livello cerebrale, si hanno gli effetti che le ho detto prima, quindi l'industria farmaceutica vuole soprattutto evitare effetti collaterali e quindi è un po' cauta su tutto il campo dei cannabinoidi, degli endocannabinoidi. Professore, quindi scoperto il meccanismo, la ricerca è al lavoro. Grazie professore per essere stato con noi, per essere stato soprattutto così chiaro. Le auguro una buona giornata e una buonissima ricerca. Grazie a lei e agli ascoltatori. Arrivederci.